Sì, dammi un bacio ancora, dimmi che il tuo amore è grande ed infinito. Ah, sogna insieme a me, sai che come te nessuno mai baciato. Il mondo tu lo sai, bello come mai, e qui fra le tue braccia. Sì, dammi un bacio ancora, donami il tuo amore per l'eternità. Questo istante sognato, mille stelle risplendono su nel cielo, l'attimo più sospirato che ho vissuto nei miei pensieri. Kiss me, say you miss, miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Oh, hold me close to you, hold me, see me through, with all your heart perfection. Thrill me with your charms, take me in your arms, and make my life perfection. Thrill me, darling, then kiss me once again, make my dreams come true. And make my life perfection. Kiss me, darling, then kiss me once again. Make my dreams come.